Signore e signori, a Rock FM sono le 8 spaccate del mattino. Suonano gli uccellini, partono anche i riff di chitarra, ma quella è una roba assolutamente normale. C'è l'Ariele, è il 12 di settembre, un mercoledì qualsiasi, se non che c'è pane, burro e rock and roll. Sveglia anche quest'oggi con i Rolling Stone romantici. She's a rainbow. Spadino, siamo stanchi oggi, si vede. Buona giornata anche a voi che vi siete svegliati solo adesso, ma ciao! Ripigliatevi. Tutta la settimana è psichedelica. Eh sì. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. She comes in color. Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. Gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a suonate tutti, facciamo suonare anche trombetta. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. Quest'oggi più che mai, da una Milano stranamente più buia, spargiamo l'arcobaleno dei Rolling Stone, che ci tengono, che teniamo come padrini di questa settimana, dal capolavoro Their Satanic Majestic Request. Avevamo iniziato la settimana con un altro brano, poi è due giorni che ci stiamo gustando questa She's a Rainbow. Per tutti coloro che ce l'hanno, una persona accanto, chiunque essa sia, che porta un po' l'arcobaleno nelle loro vite, noi cerchiamo di spargere un po' di colori, quantomeno grazie a Rock FM. Andrea, abbiamo, allora, ormai i reparti provincialotti di Pane, Burro e Rock'n'Roll sono "io amo lei, diterglielo", e "oggi è il mio compleanno". Ho visto che abbiamo fatto "io amo lei" prima, andrei con i compleanni velocissimi. Abbiamo Nino, che è il suo compleanno, da Pisa, presumo, e a Mara da Paderno Dugnano. Auguri a tutti e due, benvenuti su Rock FM, molto provincia, molto provincia. Mentre tornerei ai gruppi d'ascolto, che invece non fa provincia, fa futuro della radiofonia. Abbiamo i classici amici Raffinatori di Java, tornati all'attacco anche in questa nuova stagione. Avevamo salutato prima l'amico Lavascale Scazzato, così si firmava, che conferma, sì, sono esattamente in una tromba delle scale. Allora stai preciso, Gianni. Abbiamo un amico che si trova nella cabina ASPI di un impianto di laminazione a freddo. Qualsiasi cosa sia, benvenuto! Abbiamo il gruppo d'ascolto livornese rappresentato da Igor o Igor, quelli che lasciano il cane dalla suocera prima di andare al lavoro. Bella, mi piace questa, mi piace molto. No, lasciateli a casa nel vostro appartamento milanese all'ottavo piano, senza fargli mai vedere un giardino. Portateli dalla suocera. Come fa l'amico livornese? Salutando gli amici col cane, ne approfitto di salutare al volo anche quelli che se lo stanno scendendo. Ultimo saluto per quanto riguarda il reparto radioascoltatori rocker trasgressivi. Salutiamo Paolo. Mannaggia, non si può iniziare così male la giornata. Ho preso una multa sull'autobus. Speriamo che questa giornata non mi riservi altre cose brutte. Un saluto a te e a tutti coloro che hanno già preso la multa, caro Paolino. Se l'hai presa perché non avevi il biglietto, semplice, fallo prima di salire. Non rischiare tutte le mattine, che poi ti arrabbi se ti fanno la multa. Oppure, se non lo fai e poi ti fanno la multa, non ti arrabbiare. Sono i rischi del mestiere. Mentre se ti hanno fatto la multa per qualsiasi altro motivo, che non voglio nemmeno ipotizzare, non farlo più. Cioè, tipo che ha fatto scattare una rissa, robe così. Tra l'altro i pulmisti non ci sono più all'ascolto. Pulmisti, ci siete ancora? I'm free. I'm free. I'm free. Before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free.

spesso e volentieri nel corso delle ultime puntate abbiamo ironizzato sugli spacciatori dei Rolling Stone a riguardo del disco che vi stiamo proponendo in questi giorni. Sembra che anche i Led Zeppelin, nel periodo di Fool in the Rain, il brano che sta sfumando in sottofondo, avessero un ottimo rapporto con i loro spacciatori in questa botta di salsa merengue, no? Sembra un po' merengue questa Fool in the Rain, va bene. Grazie ai Led Zeppelin, 8 e 18 minuti primi nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Io utilizzerei il mezzo, uno dei tormentoni di quest'oggi è Pane, Burro e Rock and Roll, una trasmissione provincialotta, e allora in maniera molto provinciale andrò ad autopromozionarmi, essendo da parecchi anni sulla lunga strada del rock and roll in autoproduzione. Mi sembra doveroso autocelebrare, anche l'autocelebrazione era una buona idea di quest'oggi, di questo 12 di settembre, quindi perché non continuare. Due gli appuntamenti che vi darei per la giornata di quest'oggi. Il primo è un appuntamento televisivo per gli amici opulenti che hanno la possibilità di guardare Sky sulla loro televisione. Quest'oggi dalle 2 alle 3 sarò in diretta sulle frequenze di Rock TV, il ritorno per la nuova stagione anche su Rock TV, tra l'altro con Operai del Rock and Roll al seguito, quindi se lo vorrete dateci un'occhiata dalle 2 alle 3 su Rock TV. L'altro appuntamento di quest'oggi è per questa sera. Dal vivo a Milano, sempre con i miei IPEI, in versione Elettro 80, quindi con batteria elettronica e Operai del Rock and Roll al seguito, e Mr. Pinguino anche, se no non si suona. È qui a Milano, Saga Po Live, andate, smanettate su internet e trovate dove siamo, veniteci a trovare questa sera. È tutto per il reparto autopromozione, vi ricordo che tra pochissimi minuti il tempo di gustarci questa Leila che il buon Spadino mi fa partire in sottofondo. C'è il test attitudinale, il quiz di Pane, Burro e Rock and Roll. Sei un rocker oppure no? Scoprillo insieme a noi di Rock FM. Intanto che l'Ariele si infila la cuffia, io gli frego il destro per iniziare il test attitudinale che assegna diversi punticini per la vostra patente di rocker. Momento apice di pane, burro e rock and roll, e anche quest'oggi torniamo a occuparci di film, di pellicole. Il rock va a nozze con il cinema. Vi ricordate il celebre attore Peter Sellers? Grandissimo. Ci citi una pantera rosa. Ah, sì, ma lei mi ha prevenuto, è stato enorme, è stato gigantesco Peter Sellers in tutto il ciclo dei capolavori che riguardano la Pantera Rosa. Bravissimo, eccezionale. Parliamo di lui, proprio Peter Sellers, che nel 1969 recitò in un film che lo vedeva affiancato ad un celebre rocker che, ma di quelli tosti, grossi. Che interpretava in quella pellicola il ruolo di suo figlio. Ricordate il titolo della pellicola e il rocker in questione? Come al solito, tre soluzioni possibili. Opzione prima: la pellicola si chiamava Tengo una minchia tanta e il figlio del personaggio interpretato era pertanto Frank Zappa, il figlio di Peter Sellers. È questo il film giusto? Ma chissà. Passiamo comunque a visionare la seconda risposta possibile. Opzione seconda: il film era Viva Las Vegas e il figlio di Peter Sellers era in quel caso il mitico Elvis Presley. Viva Las Vegas! Era forse questo il titolo? Chissà. Fate le vostre valutazioni. Opzione 3. Il titolo di quel film con Peter Sellers del 1969 era The Magic Christians, interpretata da Peter Sellers in compagnia di Ringo Starr, batterista dei Beatles. E allora ditecelo subito, con chi recitò Peter Sellers? Forse con Zappa, forse con Presley o forse con Starr? La risposta, come al solito, ve la diamo tra poco, la soluzione a dopo.